Le riforme di Deng, l'introduzione dei capitali stranieri, le joint venture con gli occidentali, eccetera, provocano un aumento del reddito nella Cina, provocano uno sviluppo economico. Che tipo di sviluppo economico? Allora, qui andiamo a vedere. Cosa sta succedendo? Sta aumentando la produttività vera della Cina? La sua capacità produttiva è aumentata? O non è invece aumentato, non sono aumentate altre cose? Ad esempio i commerci con l'estero, l'introduzione di merci prodotte all'estero, la produzione in maniera subalterna per conto di altre di aziende, ad esempio metà dei prodotti di Taiwan, metà dei prodotti con marchio di Hong Kong, in realtà sono prodotti materialmente nei territori speciali cosiddetti all'interno della Cina, in fabbriche che sono gestite direttamente dai padroni di Hong Kong e di Taiwan, gestiti direttamente, con una manodopera che costa la metà o un terzo di quello che costa a Taiwan e a Hong Kong, oppure date in gestione appunto alla borghesia che Mao definiva compradora, utilizzando un termine del terzo mondo, che c'è verificata anche in Cina. E allora, ad esempio, l'introduzione di merci esterne, lo sviluppo del commercio con l'estero, cui non ha fatto seguito uno sviluppo, ad esempio, della produzione industriale autonoma della Cina in termini di potenziamento delle proprie capacità economiche rispetto ai bisogni della Cina medesima, cosa ha determinato anche come altro fattore? Questo lo dicono anche gli economisti occidentali, tutti, compresi gli economisti italiani, e compresi gli industriali italiani che trattano con la Cina, ha determinato un aumento spaventoso del debito con l'estero, che praticamente prima era zero, e l'aumento spaventoso del debito con l'estero ha determinato l'inflazione, che prima non esisteva, e questo vuol dire, fra l'altro, che già che i miserabili salari nominali degli operai cinesi, che prima appunto erano miserabili sul piano, cioè erano miserabili nominalmente, ma corrispondevano bene o male a un livello molto basso di prezzi che venivano controllati da parte del potere centrale, oggi per quanto in alcune zone, le zone economiche attorno a Hong Kong, le zone speciali, sono nominalmente più alti, sono però di fronte a un'inflazione altissima per cui l'impoverimento c'è stato. Assieme a una serie di provvedimenti di tipo chiaramente no, capitalistico, di tipo occidentale, c'è un esempio clamoroso, è quello delle case. Ora, prima le case costavano una percentuale fissa sul salario dei lavoratori e venivano assegnate, le case erano di Stato e venivano assegnate regolarmente attraverso bandi di concorso, attraverso meccanismi di graduatoria che venivano fornite là. Le case sono state privatizzate, chi aveva i soldi per poterle comprare le ha comprate, chi non aveva i soldi per poterle comprare è stato espulso dalle case. E dato che in Cina poi facevano sul serio, perché il governo faceva sul serio, chi non ha avuto i soldi per comprarsi la casa è stato espulso e si è scrivato. La polizia l'ha buttato sulla strada, e l'ha buttato sulla strada nel senso che la casa non ce l'aveva più. E chi aveva più soldi, col meccanismo classico che si usa anche da noi, di intestare una alla moglie, una al figlio, una al cognato, si è comprato 5-6 appartamenti innestando di nuovo il meccanismo classico dell'affitto. E dell'affitto ovviamente esoso, non più collegato con i salari, eccetera. Allora voglio dire, questi meccanismi di sviluppo economico, sono sviluppo economico per chi? Questo aumento del reddito, aumento del reddito per chi? Allora in Cina c'è chi in questo processo ci ha guadagnato, c'è chi in questo processo si è immiserito, i contadini, non solo, questo anche a livello geografico, di nuovo questo lo dicono anche, non hanno esitazione a dirlo gli economisti occidentali, i quali sostengono che c'è stato un aumento del reddito, condizioni di vita migliori nelle zone economiche, nelle zone costiere. C'è stato un impoverimento drammatico, e questo lo dicono anche gli economisti occidentali, nelle zone interne del paese, i contadini delle zone interne del paese sono più poveri di prima, molto più poveri di prima, oltre al fatto che sono disoccupati, prima non erano disoccupati, meno male tutti quanti un minimo di reddito ce l'avevano in qualche modo garantito da parte dello Stato. Allora voglio dire, questi provvedimenti non sono provvedimenti neutrali, questo sviluppo non è uno sviluppo neutrale, perché allora a questo punto si entra nel campo di giudizi che sono anche certo giudizi di valore. È meglio una Cina all'interno della quale c'è una situazione di povertà, però uguale per tutti, o è meglio una Cina all'interno della quale ci sono degli straricchi a dei livelli anche particolarmente di arricchi, ci sono anche di quelli che hanno raggiunto dei livelli di ricchezza addirittura inusuali in Occidente, in una situazione però di immiserimento crescente per una larga massa di persone. Allora voglio dire, cos'è auspicabile? Qual è il modello da perseguire? Sono scelte diverse, chiaramente diverse. E arriviamo alla cosa degli studenti. Allora io magari sono uno che taglia le cose con l'accento, però anche qui parliamoci chiaro. Una volta, durante la rivoluzione culturale e nelle fasi immediatamente successive, il ruolo degli intellettuali veniva definito ideologicamente gli intellettuali al servizio del popolo. In questo punto dovevano in un qualche modo anche emendare le loro macchie, i loro peccati originali, no? Di essere di origine borghese, anche cose assolutamente poco condivisibili. Lo stipendio che molti di questi intellettuali prendevano era a volte, spesso, inferiore a quello di un operaio specializzato. Ma anche adesso. Punto. Era spesso inferiore a quello di un operaio specializzato che aveva una certa anzianità. La motivazione per chi andava nelle campagne a fare il medico dei piedi scarsi o altre cose di questo genere, è una motivazione, diciamo, di tipo ideale, e cioè tutti siamo uguali, tutti collaboriamo allo sviluppo della nuova Cina, tutti collaboriamo a creare questo grande paese indipendente, egualitario, eccetera, eccetera. Poi è arrivato Deng, è arrivato lo sviluppo economico moderno contemporaneo, sono arrivate le riforme e si è detto arricchitevi, si è detto chi si arricchisse è bravo, si è detto ci sono una serie di generi che se vengono comperati sono anche degli status symbol, c'è la moto giapponese che si può comperare che prima non c'era, c'è una serie di cose di questo genere. Queste cose ovviamente, visto il ruolo che l'intellettuale, il manager devono e possono avere all'interno della società cinese, sono stati simboli naturali per lui. Dopodiché però, quanti, e qui arriviamo al perché proprio gli studenti universitari, fra gli studenti universitari che oggi sono nelle varie facoltà di Pechino, poi in realtà riusciranno a raggiungere questi livelli di potere nella società e di reddito nella società? Una parte minima, gli altri continueranno a vivere come prima e a prendere il salario che prendevano prima, ma senza più la motivazione in un qualche modo ideale che prima gli veniva data, che prima avevano, di contribuire a un grande progetto. E di conseguenza questi qui appunto sentono come esigenza quella di arricchirsi. E soprattutto la selezione come avviene? Avviene in motivi meritocratici? No, avviene quasi sempre in motivi di tipo gerarchico, e cioè i figli del partito, i figli dei dirigenti del partito sono quelli che poi a loro volta hanno accesso alle cariche importanti, alle cariche remunerative, alla moto giapponese, mentre quegli altri invece no. E allora a questo punto la rivolta di quelli che dicono io faccio queste cose e non si capisce perché devo essere escluso, tagliato fuori, è una rivolta sacrosanta, che magari oltre alla nobiltà dei principi appunto della democrazia comprende anche una serie di motivazioni economiche, che però sono sacrosante. Sono sacrosante perché mettono a nudo il contrasto visibilissimo che c'è in tutti i paesi del terzo mondo, economia dipendente dall'imperialismo, fra appunto quelli che sono i beni offerti sul mercato, in un mercato ristrettissimo, e la realtà della possibilità della gente di accedervi alla miseria che invece vive la maggioranza della popolazione. E io credo allora che il problema, assieme a una serie di altri problemi sociali che ha generato questo tipo di situazione, diciamo prima la delinquenza, diciamo prima l'inurbamento selvaggio, non è vero che tutti quanti i contadini che vengono espulsi dalle campagne trovano lavoro nelle edilizie, poi sappiamo benissimo, e questo è un modello di accumulazione primitiva di capitale già sperimentato dal capitalismo occidentale con lacrime e sangue, migliaia di morti, quindi anche da questo punto di vista qui non è una novità quello che è successo laggiù. Ecco, ci troviamo di fronte a una situazione che poi appunto non è molto dissimile rispetto a quella che si è verificata in altri paesi del terzo mondo, a economia dipendente, e ci troviamo di fronte a una situazione, quindi con il comunismo c'entra molto poco, al di là delle dichiarazioni di loro, ma assomiglia molto di più a una situazione classica da paese del terzo mondo dipendente appunto dall'imperialismo occidentale, e non a caso appunto questo gruppo dirigente oggi, ieri come oggi, passata la buriana del macello, viene sostenuto dai gruppi dirigenti dei governi occidentali, perché quello che garantisce la continuità di questo modello economico subalterno, i traffici, l'immenso mercato cinese aperto alla penetrazione delle merci occidentali, senza che ci sia più nessuno che metta in discussione il potere di questi o che possa mettere in discussione, possa impedire appunto lo sviluppo di questi traffici nei paesi occidentali e questo paese terzo mondo che ancora oggi costituisce un enorme mercato. Allora io credo che il ragionamento che vada fatto sia anche in larga misura questo, perché se no ci limitiamo appunto a dire Deng Xiaoping ha aumentato i redditi, in Cina si sta meglio, chi? Come, quando, quali redditi sono aumentati, cosa vuol dire, che tipo di sviluppo c'è stato, che riforme sono state fatte, perché appunto, ecco, l'ultimissima cosa che volevo dire riguarda la questione dell'internazionale, eccetera. Allora, lì, io non so qual è la graduatoria dei simboli, ci sono i simboli più significativi, quelli meno significativi, quelli più indicativi, io credo che questo movimento, come tutti i movimenti di questo tipo qui, c'è dentro di tutto. Credo che se in Russia oggi, la Russia o nella Cina si formalizzassero dei partiti politici, ne sarebbero 60, 70, perché ci sono tantissime idee che circolano fra questi movimenti che nascono, ci sono posizioni politiche molto diversificate, che poi ci mettono del tempo anche da riaggregarsi, a sistemarsi. Quindi io credo che nel movimento degli studenti cinesi ci fosse di tutto, da appunto a chi si rifaceva Mao Zedong alla rivoluzione culturale, chi si rifaceva ai modelli occidentali molto tranquillamente. Quello che secondo me è il problema vero è che, come ha detto qualcuno, quelli più onesti fra i commentatori occidentali che erano là, che vedevano le cose, è che non era solamente il canto internazionale l'elemento simbolico che in un qualche modo rappresentava la non rottura con una tradizione socialista, ma anche altri fattori, ad esempio. E continuare a dire come fa un governo del popolo, un esercito del popolo, a sparare addosso al popolo, a opprimere il popolo. Questo è un ragionamento che, ad esempio, in Italia uno non farebbe. In un paese occidentale uno non farebbe, perché il governo del popolo non ci crede, cioè nessuno di noi sente, ma non noi perché siamo di sinistra, ma neanche moderata, sente il governo come suo, l'esercito come il suo. Lì invece c'è ancora questo meccanismo qui, e infatti appunto anche il tipo di fraternizzazione fra questi qui e i soldati appunto in un qualche modo discendeva da un tipo di concezione, per cui ai tempi di Mao l'esercito popolare di liberazione lavorava nelle campagne, lavorava nelle fabbriche, in un qualche modo fraternizzava con la popolazione, mentre invece oggi ha bene o male le funzioni di un qualsiasi esercito del tipo tradizionale, con i gradi, slegato dal contesto sociale, eccetera, eccetera. E io credo che la memoria storica di quello che è stato sia bene o male sopravvissuta, almeno in parte, in parecchia di questa gente, e sia vista in queste circostanze, quindi non è solo il problema dell'internazionale, è il problema di una serie di elementi, anche perché poi bene o male è impossibile cancellare in un anno 40 anni di storia che bene o male la gente ha vissuto, quindi anche solo per motivi tradizionale, difficile che di punto in bianco, infatti non a caso non chiedono i partiti, non chiedono il pluralismo partitico, non chiedono queste cose qui, che invece in Occidente si chiederebbero subito, che invece in Ungheria hanno chiesto subito, ad esempio. Prego. Veramente, non sono un esperto in questo caso, anche se mi considero comunista, ma facciamo così, io provo intanto a rispondere ad alcune cose. Tendenzialmente non darei risposte ideologiche, soprattutto per una ragione, perché credo che non servano a nulla. Soprattutto non serve crearsi un'immagine di fantasia. Altrimenti, questa è una considerazione che, permettetemi, è di tipo politico, altrimenti non ci spieghiamo nulla. Cioè ci immaginiamo un'altra rivoluzione culturale, ci immaginiamo qualsiasi cosa, quando invece può essere semplicemente il Venezuela. Possiamo chiederci Che tipo di rivolta è quella venezuelana? È per il pane. E per il comunismo? Può darsi, nel senso che se c'è un movimento comunista può darsi che sia anche quello. Però quello che capita in Cina può essere, ed è probabilmente, l'inizio di una crisi che può avere forme molto diverse da quelle del passato, può essere un fenomeno che invece può collegarsi anche alla propria storia. Nulla esclude, come dire, un ritorno della rivoluzione culturale. Ma sapendo però, come dire, che è un'altra cosa, è un altro fenomeno, i dati che abbiamo non sono questi, in ogni caso. Se vogliamo crederlo, benissimo. Possiamo anche consolarci. Il problema è che fra un anno, fra 10 anni, apriremo le pagine del giornale e saremo di nuovo a chiederci, ma allora? Forse la domanda che viene posta è proprio questa. Nel senso che nel complesso, se c'è da interpretare cosa sta accadendo oggi in Cina, è proprio nel complesso delle crisi dei paesi che hanno adottato un modello economico e economia pianificata dove c'è coincidenza tra Stato e partito. È questo il comunismo? Io francamente non lo so, non chiedete a me qualcosa su questo. Dico però che è effettivamente il socialismo realizzato in questi paesi. Che il comunismo possa essere un'altra cosa, potremmo magari discuterlo. Ecco, io vorrei però rispondere su quello che so, perché questo mi sembra la cosa invece più giusta. Intanto subito, c'è stata una considerazione abbastanza, la natura di questa opposizione. Io credo di essere, pensavo, forse non sono stato sufficientemente chiaro, credo che ci siano anche delle osservazioni che vengono un po'... è una opposizione di sinistra o di destra? È un'opposizione verso la rivoluzione culturale o verso qualche altra cosa, quale sia? Può essere anche il ritorno al capitalismo? No, in questi termini non è un discorso serio. Io posso rispondere che non è un ritorno verso la rivoluzione culturale. Cioè, verso un'economia pianificata? No. Perché è del tutto incredibile la, come dire, non la lettera, ma lo spirito dell'iniziativa di Chen Yun contro la pianificazione. Perché Chen Yun è il padre della pianificazione cinese. È colui che negli anni 50 ha organizzato l'economia pianificata. E per questo Chen Yun, con Deng Xiaoping, con Liu Shaoqi, è stato criticato, perché è considerato relativamente più vicino ai modelli sovietici. Mentre Mao, come dire, accentuava non l'economia pianificata delle città, che comunque è di tipo sovietico, comunque è di tipo, come dire, sviluppo accelerato, che comunque premia l'industria pesante. Non è vero che l'industria che venne sostenuta fu l'industria, a parole, fu l'industria leggera. In realtà, nelle cifre, fu l'industria pesante. Ed è anche inevitabile, perché in realtà di che cosa si trattava? In realtà si trattava di un paese contadino che non aveva una sufficiente capacità di risorse da destinare all'industria. Le campagne cinesi non potevano essere spremute. Se fossero state spremute con un sistema di tipo staliniano, il regime sarebbe caduto subito per una rivolta contadina. Questa è comunque la validità di statista di Mao. Mao unifica la Cina, questa è forse la cosa più importante e che i cinesi non dimenticheranno mai. Questo è il problema. Ha il senso dello Stato, riscatta la Cina. La Cina che era la Cina che ha vissuto per 20 anni di guerra, dal 31 fino al 49. Questo lo dico per chiarire i termini della questione in relazione al modello maoista, almeno in termini. Oggi Chen Yun, che è il personaggio maggiormente compromesso con l'ideazione del sistema pianificato in Cina, no, non si ritorna all'economia. No, in questo senso non si ritorna, ma naturalmente chi altri può sostenere un'economia pianificata se non chi l'ha gestita, chi la conosce, chi la controlla ancora oggi? Perché guardate, qui si parla tanto della Cina come di un paese capitalista, ma queste sono cose da favola. La Cina è un paese invece a economia pianificata e le tensioni che ci sono, nascono piuttosto dalla frizione tra due elementi contraddittori. Qualcuno ha parlato delle rivolte dell'opposizione. Lasciamo stare la questione degli operai perché più o meno ho in grosso modo dato una risposta. Invece mi sembra importante l'opposizione dei contadini. Qui lasciamo stare il discorso di se esistono i latifondi, come titola ieri il manifesto. E in questo, permettetemi, la serietà deve essere chiesta ai giornali borghesi che fanno il loro mestiere. Io la chiederei anche al manifesto, perché non si può fare un articolo copiando il saggio dell'economista Gianni Salvini, tagliandolo, solo copiandolo, paragrafo per paragrafo, sul manifesto, tagliandolo però soltanto nelle parti che sono, come dire, ideologicamente non coerenti. Visto che il saggio di Salvini è pubblicato, è un quaderno del CESPI pubblicato da Franco Angeli, dico non è difficile trovarlo, leggetevelo. Ecco, però, insomma, questo non vuol dire nascondere le contraddizioni, cosa che non mi pare di aver fatto. Ecco, però non inventiamoci i latifondisti cinesi, perché non ci sono. Questo è il fatto, ci sono dei contadini che si sono arricchiti, ma non ci sono dei latifondisti, che è una cosa diversa, mi concederete. L'arricchimento di un contadino è una cosa, il latifondista è un'altra cosa. Naturalmente il latifondismo può essere una forma di arricchimento. Se però vogliamo trovarci, semplificare la realtà perché ci fa comodo, grazie, va bene. Possiamo andarcene a casa tutti contenti e andiamo a dormire. Non abbiamo più sogni o incubi sulle sorti del comunismo. Però domani vediamo un po' meglio questo, perché questo mi sembra un tema interessante. Ho parlato di rivolte contadine. Ci sono state rivolte contadine quest'inverno? Su che cosa? Su che temi? I contadini si sono rivoltati in varie province, badate, in quelle più ricche. Cioè in provincia di Shanghai, ad esempio, nel sud-est della Cina, non nel nord-ovest, dove certamente i contadini sono poverissimi, sicuramente, per tante ragioni, ecco, non solo per ragioni di classe, proprio per ragioni anche ambientali. Perché si sono ribellati i contadini ricchi? Per una ragione molto semplice, perché i contadini che vivono in un'economia pianificata, naturalmente, devono obbligatoriamente vendere una quota del proprio prodotto in cereali allo Stato, sulla base di un prezzo che è un prezzo che varia. Ora, questa vendita è una vendita del tutto particolare, nel senso che il prezzo è amministrato come si fa in tutte le economie pianificate, cioè è lo Stato che stabilisce un prezzo, non il mercato. È lo Stato. Il fatto è che questo prezzo, tra l'87 e l'88, è aumentato di alcuni punti. Il prezzo dei fertilizzanti, che sono ora indispensabili per produrre cereali in una certa quantità, è aumentato invece del doppio dell'aumento del... In molte province, per una serie di ragioni che sono abbastanza complesse, di ordine monetario, il pagamento del riso che viene venduto obbligatoriamente allo Stato non è avvenuto in denaro, ma in buoni quelli che noi chiameremo buoni del tesoro, pagherò. I contadini si sono ribellati. E questa è una rivolta della fame? È una rivolta contro la riforma per tornare a un'agricoltura pianificata? No. È quello che veniva denunciato dal padre della riforma, dal tecnico che ha in qualche modo proposto questa riforma, in realtà già nel 1985, già alcuni anni fa, perché effettivamente a partire dal 1985 cominciano ad essere dei problemi. Su che cosa? Ma proprio sulla gestione dei prezzi dei prodotti agricoli. Questo è il problema vero. Questo è il problema anche tecnico, se vogliamo, che ha riguardato l'agricoltura cinese. Non una riduzione catastrofica della produzione. C'è stata una riduzione della produzione di cereali che è vista dalla classe dirigente cinese, ma non solo cinese, dai giapponesi, dalla classe dirigente di Taiwan o della Corea, per una serie di motivi che sono anche motivi di ordine storico, ideologico, legati alle caratteristiche del potere del potere della classe dominante in questi paesi, il controllo dei cereali è fondamentale e dunque anche psicologicamente, non solo dal punto di vista economico, è interpretato come un dato estremamente negativo. Ma il calo della produzione di cereali si è avuto sostanzialmente perché i contadini, nella misura in cui hanno ottenuto alcune garanzie e la possibilità di scegliere una parte delle produzioni, hanno preferito scegliere colture di tipo industriale, ad esempio, più remunerative, spesso perché destinate al mercato libero. Questo sì che è stato importante. Ed è in questa frizione tra un regime di prezzi a doppio binario che nascono elementi di crisi. Ma in questo modo io non svaluto, non tendo a sminuire l'importanza di questa crisi, tutt'altro. Dico semplicemente che è una crisi che noi non possiamo definire semplicemente di pauperismo, altrimenti faremmo un errore per fare... Usiamo questo parallelo, non so dire se è proprio correttissimo, ma comunque, per analogia, come sempre, l'Italia degli anni 50 e 60 è stata un'Italia lacerata al massimo, dal punto di vista del trasferimento della campagna alla città, un fenomeno paragonabile, dal sud al nord. Possiamo dire che in questo processo si è impoverita, dal punto di vista anche del reddito dei... individuale come media, bene, oggi noi parliamo di una società dei due terzi, nel senso che i due terzi hanno comunque raggiunto un certo livello di reddito, e c'è il problema di un terzo. Se noi adottassimo per la Cina considerazioni del tipo la trasformazione porta necessariamente all'impoverimento della maggioranza, bene, a questo punto non comprendiamo che in Cina è, non so dire se riuscirà a realizzarsi, questo è un altro discorso, non faccio previsioni, ma dico che comunque quello che è stato avviato è un processo che ha permesso l'aumento della ricchezza, e io non ho detto che l'aumento della ricchezza sia distribuito in maniera egualitaria, ho parlato proprio di contadini che si sono arricchiti, però un aumento reale che ha creato nuove contraddizioni sociali, ed è su questo che probabilmente la società cinese si troverà a discutere, ad agire, si troverà a risolvere problemi. Sul problema invece ci sono tante cose sul quale potrei dire, ci sono ancora almeno un paio di temi sui quali vorrei aggiungere qualcosa, proprio così. Sempre sul maoismo, l'egualitarismo maoista, e anche sull'impoverimento. Francamente non è facile dare delle stime e dare delle cifre corrette, perché spesso queste cifre sono manipolate, sono al di là della manipolazione politica, sono spesso incomplete, non abbiamo cifre veramente affidabili. Però si è citato appunto come l'economista borghese comunque come affidabile. E vabbè, uno studio fatto nel 79, cioè prima dell'applicazione della riforma dal Fondo Monetario Internazionale, uno studio sui redditi in Cina dava un risultato di questo tipo. La Cina aveva una divaricazione dei redditi tra il distretto, tra la contea più povera e la contea, il distretto più ricco, da 1 a 29. Questi sono dati naturalmente che non si possono sovvertire in 40 anni di tempo, perché sono dati legati alle caratteristiche, come dire, storiche, nel senso che questi erano poveri prima, non diventano ricchi all'improvviso con la rivoluzione, però 1,29, quando noi ad esempio sappiamo che in Unione Sovietica non è possibile fare questi confronti, ma lo dico solo a titolo puramente indicativo, noi abbiamo differenze di reddito tra la regione più povera e la regione più ricca che sono da 2 nelle regioni del Baltico, 1 nelle regioni dell'Asia centrale, per cui termini ipotetici possiamo sempre dire certamente c'è una maggiore eguaglianza regionale di reddito. Ecco, però il contadino della provincia nelle campagne vicino a Shanghai ha certamente un reddito che è molto più elevato, mangia meglio, per capirci, del contadino del Gansu, della provincia interna del nord-ovest. Questo è un dato. L'egualitarismo maoista era un egualitarismo per cellule autosufficienti. La Cina era stabile o relativamente stabile per questo motivo, perché nel Gansu avevano pochissimo, ma comunque c'era un criterio relativamente egualitario di distribuzione di quello che avevano. Naturalmente c'erano anche forme di, come dire, lo Stato funzionava per realizzare ad esempio i canali, cosa che invece con Deng Xiaoping non ha funzionato come prima, è inevitabile, è ovvio. Le regioni più ricche vanno più veloci di quelle più povere. Per quello che ho potuto stabilire, questo confronto ha portato comunque a realizzare una cosa. Il villaggio più povero, che è stato preso a modello da questo studio del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto comunque un incremento dei redditi complessivi estremamente significativo. Il fatto è che gli altri delle province sudorientali, naturalmente quel reddito, quell'aumento se lo sono mangiati più volte, perché hanno potuto migliorare molto di più le proprie condizioni. Sull'espulsione dei contadini, ma qui si può parlare come dire, di espulsione, e l'espulsione è espulsione, vuol dire che uno abbandona una regione e se ne va via, ma è espulso perché appunto c'è una classe di proprietari terrieri che compra le terre e caccia i contadini poveri? Se noi pensiamo ad un processo di questo genere, appunto siamo nel campo delle favole, non siamo nel campo dei processi reali. Che i processi reali siano infami spesso in Cina non vuol dire nulla, però dobbiamo capire i processi reali, non le tesi consolatorie che dimostrano soltanto che abbiamo ragione, perché altrimenti naturalmente non si va da nessuna parte. E il problema è questo, l'espulsione nelle campagne cinesi ha avuto origine sostanzialmente da un incremento di produttività. In che termini? Le famiglie, prima c'erano le brigate, la comune era divisa in brigate, ogni brigata aveva delle squadre di lavoro che dovevano fare un certo lavoro. I redditi venivano, si calcolavano a punti che corrispondevano a giornate di lavoro. Se uno lavorava 20 giornate, aveva una certa parte, badate, della produzione, cioè aveva tanti chili di riso. Se lavorava 30 giorni al mese, aveva invece un numero di chili o di sacchi di riso in più. Il pagamento era sostanzialmente in natura. Questo è il dato. La riforma del 1979, poi, in realtà, quando viene avviata, stabilisce questo. Le famiglie che lavorano, che compongono la brigata di produzione, hanno una quota della terra della brigata stessa. Cioè, se la brigata possiede 100 ettari di terreno, ci sono 100 famiglie, ogni famiglia avrà a disposizione un ettaro di terreno, cioè è stata una redistribuzione del tutto egualitaria. Perché c'è espulsione dalle campagne? Per questo motivo, il processo è abbastanza complesso, nel senso che poi viene trasformato, ci sono varie fasi, ora tra le proprie nel dettaglio è anche complesso. Comunque, in questo processo che è relativamente egualitario, nel senso che se c'erano terre di diverso valore, i contadini cinesi sanno valutarle benissimo, per cui c'era una quota di terra buona e una quota di terra meno buona. Per cui ogni famiglia aveva la stessa porzione di terreno di un'altra. Non c'è formazione di latifondo. Perché c'è espulsione di manodopera in questa fase? Perché quando la famiglia si trova ad essere responsabile, questo è il contratto di responsabilità, del ettaro di terreno, in realtà, se voi fate il conto, scoprite che non è per ogni famiglia un ettaro di terreno. Cioè il suolo agricolo in Cina è scarso rispetto alla popolazione. E i contadini sono tanti, sono 800 milioni. Per cui si crea per ogni famiglia una frazione inferiore all'ettaro. Per cui la famiglia aveva a disposizione una porzione insufficiente o meglio, sufficiente a garantire solo l'alimentazione. Ma a questo punto una famiglia che è composta da 5, da 6 individui può stabilire semplicemente una cosa, che quella frazione di ettaro può essere coltivata benissimo dal padre e dal fratello maggiore. Perché la moglie deve lavorare in campagna? Quando potrebbe, ad esempio, tenere nel proprio lotto, badate, questo terreno viene dato in contratto ed è sempre terreno dello Stato, o meglio, della brigata. C'è poi la quota, che esisteva già prima, ed è tradizionale in tutti i paesi di economia pianificata, la quota, come dire, privata, che ho detto tende ad aumentare fino al 15%. In questa parte privata spesso succede che il contadino appunto coltiva intensamente, non so, ortaggi, oppure alleva le anatre, e la moglie e i figli più piccoli vanno a vendere al mercato le anatre. Per questo si dice che c'è trasferimento, è un dato statistico. L'espulsione è in questo senso è un concetto di tipo economico. Noi abbiamo passaggio da un settore, quello primario, ad un altro settore, che è comunque un dato che indica un aumento dei settori produttivi, ad esempio l'industria oppure il terziario. Ecco, questa è l'espulsione. Se noi immaginiamo il proprietario terriero che scaccia con il fucile i contadini poveri, abbiamo l'idea di qualche cosa che non è, comunque non è la Cina. Ci possono essere tensioni sociali? Sì, certo che ci possono essere tensioni sociali, ma di altra natura. Ad esempio, il contadino che è più intraprendente, perché esiste, e i contadini cinesi hanno il senso, diciamo, del capitalismo, sicuramente il processo che si è avviato libera, come nella metafora di Chen Yun, libera le forze economiche. Nel senso che il contadino dovrà sempre vendere allo Stato, al prezzo fissato dallo Stato, naturalmente, almeno una quota della produzione di riso. Dall'85 in poi è invece possibile vendere anche al mercato libero, e questo vuol dire ampliamento e commercializzazione in termini anche diversi. Questo infatti è un fenomeno molto più interessante, questa seconda parte che, come dire, contribuisce maggiormente alla differenziazione di reddito. Ma fino all'85 questo è un fenomeno che non riguarda le campagne. Nel senso che c'è espulsione, e generalmente questa espulsione corrisponde a una economia che non è necessariamente privata, è sempre pubblica, ad esempio la cooperativa. La cooperativa organizzata dalla brigata di produzione, cioè da un segmento comunque, diciamo, dello Stato, anche un segmento locale, cosa fa? Organizza la produzione, certo, per Hong Kong, anche se naturalmente non è nelle proporzioni di cui si è parlato, cioè metà della produzione di Hong Kong o di Taiwan viene dalla Cina, perché dire questo è dire una cosa che non sta né in cielo né in terra, nel senso che Hong Kong forse ancora, ma Taiwan, pur avendo a che fare economicamente con la Cina, deve le ragioni della sua potenza economica in altri fattori, non in questo. È marginale, cioè la Cina conta per l'interscambio pochissimo a livello mondiale. La Cina ha un'economia che potrebbe essere paragonata più a quella della Spagna complessivamente, più che a quella degli Stati Uniti, mi pare evidente, per cui non è così importante per l'esterno, può essere invece importante per l'interno, questo sì. Comunque, a livello locale, nei villaggi, a livello dei piccoli centri, si crea un fenomeno di questo tipo, con passaggio di una quota della popolazione precedentemente occupata ad altre attività, appunto a lavorare nella fabbrichetta gestita in cooperativa. E talvolta anche, ad un certo punto, ci sarà proprio nelle attività individuali, private, capitalistiche. Certo, sì, in questo senso possiamo dire che sono capitalistiche anche. Su questo non ho obiezioni da fare. Però è una espulsione, naturalmente, di ben altre caratteristiche. Perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Possiamo dire che l'immigrato dalle campagne dell'Agrigentino è stato sfruttato, è sfruttato alla Fiat. Però non possiamo non vedere che questo passaggio è un passaggio che trasforma l'economia e che comunque vuol dire che avremo a che fare non con i contadini ma con gli operai, che magari fanno scioperi e fanno quello che è successo negli anni 70, non a caso, in Italia, per analogia sempre. Per cui questa è la prima fase di espulsione. Quello che è stato comunque determinante, che cambierà progressivamente, è piuttosto il problema dei prezzi. Nel senso che inizialmente i prezzi dei cereali vengono elevati e questo permette ai contadini che lavorano a contratto di essere garantiti, perché sanno che comunque lo Stato comprerà. Ma questa è una cosa importante. In una economia di mercato, se uno produce qualche cosa, non necessariamente riesce a vendere quello che produce. Cioè, il mercato è proprio questo, nel senso che c'è un'incertezza. Agnelli è sicuro di vendere tutte le automobili che produce? No, nel senso che, appunto, certo, chissà perché tutti comprano le Volkswagen. C'è questa incertezza. Nelle campagne cinesi, chi produce riso è sicuro di vendere il riso. Quando aumenta il prezzo del riso, ed è aumentato di circa il 20% all'inizio della riforma, naturalmente i contadini producono più riso. Perché? Perché appunto lo Stato ha aumentato i prezzi, dunque è remunerativo. Ad un certo punto sarà possibile, ma è un processo graduale che dura alcuni anni, aumenta di più il costo della colza e i contadini cinesi produrranno più colza. Questo è il fatto. Ad un certo punto, dall'85, sarà possibile la commercializzazione. All'origine era una commercializzazione all'interno del villaggio, cioè non si poteva commercializzare a lunga distanza. Poi si può. E questo naturalmente vuol dire inserimento in un'attività mercantile con elementi di mercato. Perché naturalmente c'è una quota di produzione che può essere venduta nel mercato. È tutto questo è un fenomeno, come dire, semplicemente di impoverimento? No, perché in questi processi naturalmente abbiamo alcuni che sono comunque garantiti, i contadini sono comunque la ciotola di ferro, perché lo Stato compra sempre. Al massimo si lamentano se lo Stato paga poco, questo sì. Se lo Stato riduce il prezzo del riso, naturalmente il contadino si lamenta, ma non del mercato, della decisione dello Stato. Ed è accaduto proprio questo, in sostanza. Questo è proprio un meccanismo che si è innestato in questi anni. Cioè la protesta contadina è con l'abbassamento del prezzo del riso, oppure con un innalzamento del prezzo del riso che non riesce a coprire gli input necessari, i fattori della produzione necessari. Per cui se ad un certo punto arriva nelle campagne il fertilizzante, il contadino lo usa e deve usarlo sempre di più. Un meccanismo magari discutibile, ma così è, nel senso che chi coltiva ha bisogno del fertilizzante se comincia ad utilizzarlo. Perché? Perché aumenta la produzione, ad esempio. Però, ritorniamo un istante al discorso dell'espulsione dalle campagne. Vorrei concludere con questo dato. L'espulsione dalle campagne in Cina dimostra solo una cosa, cioè dimostra la sottoccupazione che era presente, che era esistente nella agricoltura cinese, e potrei dire anche nell'industria per altri fattori, solo che nell'industria non si è voluto, per la sensibilità dei centri urbani, non si è voluto innescare un processo non facilmente gestibile. Se si fosse varata la legge sulla licenziabilità, o meglio, la legge sul fallimento, che vuol dire licenziabilità, di che cosa? È stato fatto un calcolo, io non so dire se è attendibile, lo riporto semplicemente, il 20% delle industrie cinesi è, come dire, non competitiva. Ora, fate attenzione. Zhao Ziyang era sicuro al potere in quest'inverno? No. Zhao Ziyang quest'autunno ha perso la battaglia veramente decisiva, quella sulla riforma dei prezzi. Cosa implica la riforma dei prezzi? Implica proprio, naturalmente, del settore urbano-industriale. È la riforma urbana che non ha funzionato in realtà. Perché fare la riforma dei prezzi vuol dire ampliare i meccanismi di mercato, come è accaduto già nelle campagne, nelle aree urbane. Però vuol dire immediatamente trovare che cosa? Trovare che il 20% degli operai sono, o meglio, delle fabbriche, ora per ipotesi, io dico, non ne sono affatto sicuro, il 20% delle industrie e probabilmente il 20% degli operai come esuberanti, proprio in termini di mercato e dunque licenziabili. Su questo, che è un gioco veramente politico, il potere non ha potuto decidere, o meglio, ha deciso di sospendere la riforma dei prezzi. In questo momento la riforma economica forse funziona perché c'è la repressione, ovviamente, perché... ma non si farà comunque una, probabilmente non si farà la riforma dei prezzi, perché vorrebbe dire instabilità urbana a livelli inaccettabili. E in questo senso, se oggi gli studenti sono all'avanguardia, è possibile comunque che in un futuro, se si facesse la riforma dei prezzi, all'avanguardia troviamo altro che studenti, troviamo gli operai, troviamo chiunque altro che vive nei centri urbani. Ecco, non posso naturalmente parlare di tutto, perché su queste cose non è sufficiente neanche cioè ci vorrebbe veramente un corso di lezioni, non una discussione. Però c'è un tema sul quale non posso non dire nulla, ed è un tema sollevato da un compagno che è intervenuto prima, sul rapporto internazionale, sulle relazioni internazionali. E in questo... La Cina era isolata, ma era isolata per tanti motivi probabilmente. Il modello economico maoista era certamente, anche se è un modello, io contesto che sia un modello completamente diverso da quello sovietico, cioè era una eccezione, ma non era antagonista come si voleva far credere negli anni 60. L'antagonismo era un dato, come dire, di natura soprattutto politica. Nel senso, nel momento in cui stai a litigare con i sovietici devi proprio dire che tu sei un'altra cosa, questo mi pare evidente. Poi nel concreto non erano, le differenze non erano così, così sensibili. La Cina era isolata effettivamente perché il modello maoista si fondava sulla autosufficienza delle campagne in particolare. Era isolata anche per altre ragioni, cioè non si può pensare che l'isolamento fosse solo un isolamento che partisse da Pechino. Nel 1945 avrebbe preferito, e tutta la diplomazia di Chou Enlai nel periodo tra il 45 e il 46 fino al... almeno fino al 47-48, poi dopo vincono, per cui non si pone più il problema. La diplomazia dei comunisti subito alla fine della Seconda Guerra Mondiale è proprio quella di impedire che gli americani aiutino Chiang Kai-shek. Sono stati gli Stati Uniti a combattere i comunisti, cioè a fare una scelta di campo, ma non era così scontata. Non era così scontata in quel momento. E Mao, da questo punto di vista, è molto aperto, è molto attento ad avere avrebbe preferito un rapporto con gli Stati Uniti piuttosto che con l'Unione Sovietica. Su questo ormai sappiamo che effettivamente si fidava di più di un rapporto, come dire, d'affari con l'esterno, piuttosto che con un rapporto che vedeva inficiato proprio dal peso ideologico dell'Unione Sovietica di Stalin. Perché chiedere a Stalin, dopo aver ricevuto la porta in faccia da parte degli Stati Uniti, vuol dire chiedere, e infatti Stalin si è comportato proprio come qualcuno che dà, e certamente non ha favorito il processo interno, né dal punto di vista economico, né. Cioè è stato imposto in qualche modo il modello sovietico, è ovvio, la Cina non aveva nessuno a cui rivolgersi. Nel momento in cui, per una serie di ragioni, e qui appunto sono tante le ragioni, i cinesi decidono di rompere, o quantomeno i rapporti sono diventati così tesi che si giunge alla rottura con i sovietici, i cinesi sono isolati, non sono, sono isolati per, come dire, per gli altri, per ragioni che stanno negli altri, non è che abbiano scelto l'isolamento, o quantomeno una tendenza all'isolamento, l'orgoglio nazionale anche, il senso di aver fatto una rivoluzione che è veramente una rivoluzione di portata storica, ha in qualche modo contribuito a convincere i cinesi in questa direzione. Durante la rivoluzione, ma poi, meglio ancora, prima ancora della rivoluzione culturale, ma o in quel periodo, i cinesi che erano all'avanguardia dei movimenti rivoluzionari, ma non esageriamo, nel senso che i cinesi erano isolati anche nei confronti dei movimenti rivoluzionari, con l'unica eccezione del Vietnam, e non per caso, nel senso che riguardava proprio le proprie frontiere. E non appena si è risolto il problema con gli Stati Uniti, nel 1970 i cinesi non hanno avuto nessun problema. Nel 1973 i vietnamiti hanno dovuto firmare e non era per loro la situazione, e non erano le condizioni migliori. Ma all'inizio degli anni 60, nel 1965, i cinesi sono stati abbastanza freddi per quel che succedeva in Indonesia. E Suharto, di comunisti, ne ha fatti fuori una cifra variabile, si dice tra 500.000 e 1.000.000, grosso modo. Hanno dato ospitalità all'unico scampato del Comitato Centrale del Partito Comunista Indonesiano. Però i cinesi in questo erano abbastanza, non scherzavano, non faceva parte del... e non hanno alzato la voce più di tanto, anzi. Chi riconosceva la Cina al tempo della rivoluzione culturale? Paesi in qualche modo rivoluzionari hanno semplicemente cercato di rompere alcuni partiti delle regioni per avere una frazione filocinese, nulla di più. Chi appoggiava il Pakistan? Il Pakistan era il più forte alleato dei cinesi per tutti gli anni 60 e per buona parte degli anni 70. Negli anni 70, dopo naturalmente il riconoscimento delle relazioni con gli Stati Uniti, cambiano le cose. Però il Pakistan, chi altri? La Corea del Nord. La Corea del Nord era mezzadria, Unione Sovietica e Cina. Il Vietnam è accidenti. Nel senso che il Vietnam non poteva non essere amico dei cinesi nel 1965 con le bombe che cadevano sul Tonchino. Questo è evidente. E poi chi altri? L'Albania. E questo avere una politica, in questo senso siamo ancora in una storia che è filtrata davvero dalle nostre speranze. E in fin dei conti è anche un bene. Cioè mi piace di più sapere che i maoisti sono in Italia, che ci sia gente in Italia che lotta contro le oppressioni, contro gli sfruttamenti, contro le mancanze o gli attentati alla libertà. Questo mi va benissimo. Che poi ci si appelli a Mao, certo, l'ho fatto anch'io, e mi va benissimo, non rinego il mio passato, però politico in Italia, non il giudizio. Il giudizio deve essere un giudizio di ordine storico, e spesso non ci piace, ma d'altra parte, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stupirci soltanto del patto tra i cinesi e gli americani? Confesso che quando si seppe del patto con gli Stati Uniti, quando Kissinger andò a Pechino e poi arrivò Nixon, confesso che i fumi dell'ideologia mi sono passati via, mi sono usciti dalla testa. È un peccato, sì, si perde qualcosa, forse si perdono le illusioni che contano moltissimo, però bisognava farlo, altrimenti si scopre poi che sovietici e cinesi possono spararsi. In quel caso si condannava, era chiaro, i sovietici erano il sociale imperialismo. E la guerra tra Cina e Vietnam, dobbiamo rubricarla in quale capitolo della storia dei movimenti comunisti? Non in quello delle ideologie. Diciamo che il rapporto tra gli stati, che ci sono interessi, che ci sono relazioni di potenza, anche in questi stati. Saperlo non ci deve deprimere, semplicemente ci deve sostenere nell'analisi politica e nell'azione politica. E basta, sapendo che appunto non si può vivere di illusioni. Questa è la parte che forse non era esuberante, nel senso che preferivo parlare solo di come funziona la riforma nelle campagne cinesi. Comunque, se ci sono altre domande, no, penso che a mezzanotte ci caccino via. Naturalmente ci sono molte domande alle quali non ho risposto, e me ne rammarico. In alcuni casi perché non sono così bravo da rispondere a tutto. Ecco, diciamolo semplicemente.